Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Olimpia di Dario Ricci. L'11 marzo a Bologna un gruppo di autonomi tenta di disturbare una riunione di Comunione e Liberazione. Intervengono le forze dell'ordine e i carabinieri uccidono lo studente Francesco Lo Russo, militante di Lotta Continua. Fin d'amore vince sempre il bene e chi si lascia torna sempre insieme. Il lancio delle bottiglie incendiarie contro la sede della Democrazia Cristiana sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di guerriglia. I giovani, coperti da passamontagna, danno l'assalto alla sede della DC in Piazza del Gesù, all'ambasciata del Cile e alla redazione del Popolo. Sei bella da morire. Nel paese, hanno detto il senatore Bufalini a nome della segreteria del partito e Massimo D'Alema, che è il segretario della Federazione Giovanile Comunista, nel paese, dicevo, ci sono formazioni squadristiche eversive e violente, di cui la principale, dice il PC, è quella dei cosiddetti collettivi autonomi, che fanno uso delle armi, devastano, rubano per abbattere le istituzioni democratiche, per spostare a destra l'asse politico attraverso la strategia della tensione. La contestazione giovanile nelle strade e nelle università, gli Homo Sapiens che vincono Sanremo e che quindi sarebbe stato un anno particolare, forse già lo potevamo capire da questo indizio, e poi tanti altri eventi, la RAI che comincia le trasmissioni a colori e che chiude il leggendario Carosello. Questi e tanti altri eventi caratterizzano il 1977. Perché oggi a Olimpia ci concentriamo su quest'anno in particolare? Perché ho qui tra le mie mani un libretto davvero particolare e curioso, perché quell'anno, quel 1977, è stato un anno unico e irripetibile nella storia del calcio mondiale. È stato l'anno dei tre campioni, 1977, l'anno dei tre campioni, infatti è il titolo di questo volume edito da Ultrasport e che intreccia e che racconta gli intrecci che in quell'anno ci sono tra le carriere di tre tra i più grandi della storia del calcio: Diego Armando Maradona, Pelé e Johan Cruyff. Anno straordinario, così come straordinari per aver avuto l'idea e per il modo in cui l'hanno sviluppata i tre autori di questo volume. Eccoli, ospiti di Olimpia. Francesco Gallo, ben ritrovato. Tu ogni tanto passi da queste parti, Francesco? Ciao Dario, è sempre un piacere essere con te e con voi. Alessandro Mastroluca, ben trovato. Grazie, saluti a tutti gli ascoltatori. E Ivan Sica, ben trovato e benvenuto a Olimpia, Ivan. Ciao Dario, grazie a tutti. Allora, vi siete spartiti i tre campioni, no? Perché ognuno di voi ha sviluppato in questo volume la storia in quest'anno particolare di Cruyff, Pelé e Maradona, che chiaramente si incrociano, si intrecciano queste storie in momenti diversi di queste tre carriere. Dieguito sta per emergere alla vigilia, quasi nell'anno che porta ai mondiali del 78. Johan Cruyff è reduce da un europeo che non è andato come doveva andare e guarda ai mondiali del 78, ma in condizioni del tutto particolari. Pelé è ai margini del suo impero calcistico, ma sta scrivendo un altro pezzetto della sua leggenda, appunto. Scusate, una curiosità, chi è che ha avuto l'idea di intrecciare queste tre storie in questo libro che racconta quest'anno così specifico? Francesco, dimmi tu. L'idea è stata Ivan Sica, con lui stavamo già collaborando ad alcuni lavori, uno tra l'altro cinematografico, e poi con Alessandro ci sentiamo spesso anche per scrivere insieme o discutere di sport. E un bel giorno ci ha convocato entrambi dicendo: ragazzi, avrei avuto l'idea di scrivere questo libro sul 77, l'unico in cui Cruyff, Pelé e Maradona hanno giocato contemporaneamente sui campi di calcio più importanti del mondo, perché non lo scriviamo insieme? E naturalmente io e Alessandro abbiamo subito detto sì, e poi sono iniziate ovviamente, come hai detto anche tu, le spartizioni di questi grandi campioni. Ecco, dall'accento mi sembra di aver capito che Ivan, per certe contiguità territoriali, racconta il 77 di Maradona, no Ivan? Sì, sì, purtroppo, tra virgolette, diciamo, è il campione che mi sono un po', come dire, gli altri due me lo hanno lasciato senza battere ciglia, sì, perché poi oltretutto sono napoletano e cresciuto nel mito, ma più che nel mito, proprio, come dire, è una sorta di secondo padre di ispirativo Maradona, perché quando lui giocava nel Napoli io andavo dai 5 ai 12 anni, quindi per me davvero, diciamo, Maradona, come dico sempre, mio padre è una persona che non si arrabbia su nulla, né, che so, è completamente apolitico, non ha idee particolari di nessun tipo, però se gli parli male di Maradona si incazza, è l'unica cosa. Quindi nella vita sto sempre cercando di capire come mai Maradona crea quel sentimento ad una persona come mio padre, e piano piano lo sto scoprendo. Sì, tra l'altro devo dire gustosissimi anche i tuoi post su Facebook in cui racconti una serie di aneddoti raccontati da tante gente comune, tante persone comune, relativi proprio al Diego di Napoli. Ma Alessandro Mastroluca, correggimi se sbaglio, ma nel 77 è ancora Pelé che è meglio Maradona? In quel momento sì, diciamo è l'anno del passaggio di consegne, perché Maradona sta cominciando, Pelé sta finendo, vive il suo ultimo anno di carriera, lo annuncia all'inizio, lo annuncia a gennaio, questo sarà il mio ultimo anno da calciatore, e diventa una sorta di farewell tour, una stagione che non vuole finire mai, tanto è vero, dopo il campionato americano che dice con l'anno solare, quindi comincia in inverno e finisce in autunno, c'è tutto un ciclo di amichevoli, l'ultima più simbolica di tutte, la giocano i Cosmos e il Santos, la sua squadra storica, e Pelé gioca un tempo con una squadra, un tempo con l'altra. Tra l'altro, avventura americana di Pelé, tra l'altro esce questo libro nell'anno in cui, correggetemi se sbaglio perché ne sapete più di me, Maradona fa 60 anni e Pelé 80, quindi insomma è vero il 77 è importante, ma anche questo stesso 2020 non scherza. Esperienza americana che non inizia come Pelé avrebbe voluto, perché davvero si trova a giocare sì nel Cosmos, ma circondato da una serie di studentelli, e le prime partite sono belli schiaffoni che rimediano i Cosmos, no Alessandro? Esattamente, è una costruzione che richiede del tempo, quella dei Cosmos, perché il calcio in America non era ancora in quel periodo particolarmente celebre. Diciamo che Pelé ha portato in qualche modo il calcio sulla mappa degli Stati Uniti. In quel 77 arriveranno anche Beckenbauer e Carlos Alberto, il terzino del Brasile, che segnò il quarto gol della finale mondiale del 70. C'era già Giorgio Chinaglia, che ha avuto rapporti piuttosto complicati e piuttosto tesi con Pelé, insomma quella diventa una squadra celebre, lo diventa anche perché è circondata dagli attori che girano con la squadra, che vanno allo stadio, da Mick Jagger e Robert Redford che sono negli spogliatoi una partita sì e l'altra pure, insomma diventa la squadra più glamour, davvero più cosmopolita di quella stagione, di quel pezzo d'America. Francesco Gallo e Johan Cruyff, perché io insomma Johan Cruyff in quel momento è ancora nel pieno della sua carriera calcistica, è già un mito, ma io da ragazzo me lo ricordo ad esempio a metà degli anni 80, addirittura scudettato con la maglia del Feyenoord, no, perché aveva voluto fare un dispettuccio ai suoi amici dell'Ajax, cioè insomma per dire, nel 77 Cruyff forse è il Pelé, no? Sì, poi nel 77, come racconta lui stesso nella sua autobiografia, lui si sente al massimo della sua carriera, della sua forma fisica e mentale, e quindi ovviamente sciocca tutti, sia in Spagna ma soprattutto anche in Olanda, quando nel 77 lascia la nazionale e annuncia anche che non avrebbe partecipato ai mondiali del 78. Tutti quanti pensavano che ci fossero problemi con l'allenatore, cosa che non era, oppure che era sul punto di abbandonare il calcio e appendere le scarpette al chiodo, cosa che invece non era. Era soltanto che nel 77, come si è scoperto appunto in questa biografia, 40 anni dopo, e un delinquente ha tentato di rapirlo, di fare una rapina a casa sua, e quindi ha messo in pericolo tutta la sua famiglia. Per fortuna non ci è riuscito, ma poi la polizia disse appunto a Cruyff di non parlare dell'accaduto, e quindi lui non ha potuto nel 77 e nel 78 rivelare la verità. E quindi dagli studi di Londra della BBC ha soltanto seguito la nazionale olandese arrivare in finale e perderla contro l'Argentina, quindi la seconda finale consecutiva per sei mondiali, un po' così da spettatore e telecronista. E questo è stato il più grande cruccio di tutta la sua carriera. Cruccio, quello dei mondiali del 78, anche nella carriera di Maradona, no, Ivan Sica? Perché Maradona era già qualcosa di grande, o che faceva intravedere tutta la sua grandezza, ma Menotti, il CT dell'Albi Celeste, sceglie diversamente, non lo convoca per i mondiali casalinghi. Sì, e decide di passarsi, diciamo, sulla squadra che aveva costruito nei due anni precedenti. Maradona in quel 77 è il Pelusa, questo bimbo che entra e esordisce in prima squadra il 20 ottobre del 76 e tira un cagno, come dicono in Argentina, quindi fa un tunnel, o come si dice qua a Napoli, fa una mutanda al primo tocco di palla. E non è, il cagno non è una cosa da niente in Argentina. Quando ti intervistano a fine partita, parli sia del gol che hai fatto, sia del cagno che hai fatto, quindi, come dire, fa uno dei primi delle prime azioni fondamentali da segnalare subito su un giornale. Quindi, come dire, Maradona diventa siamo partiti subito bene, al primo insomma. Tocco di palla, esatto, al primo tocco di palla è già qualcosa di speciale. Poi nel 77 esordisce, Menotti lo nota subito dopo pochissime partite e lo fa esordire con la nazionale maggiore contro l'Ungheria. E una cosa bella, io poi ho letto parecchi giornali, diciamo, dell'epoca argentini, e è bello pure come raccontavano il calcio allora. C'era Gallego che lo sosteneva e dopo i primi impacci, dopo i primi minuti di impaccio, lui riesce a rubare palla ad un ungherese che però lo falcia subito, e Gallego gli dice: forza, forza, questo è il calcio dei grandi, da questo calcio devi imparare a giocare. Quindi tutte queste cose che escono poi dal racconto proprio, come dire, veramente di prima mano dei giornalisti dell'epoca, ti fanno vedere pure un altro calciatore, perché poi Maradona per noi, soprattutto napoletani, è diventato Maradona, cioè il più grande di tutti i tempi. Però all'epoca era un bambino, e quindi è stato bello raccontare quel suo periodo di vita da calciatore e appunto da ragazzino, da bambino. Eh sì, era poco più di una cebolita, no? Quella cipollina che erano le cipolline, la sua primissima squadra. Allora, qua Olimpia, prendiamoci un attimo di pausa, poi grazie a Ivan Sica, Alessandro Mastroluca e Francesco Gallo torniamo in quel 1977, l'anno dei tre campioni. Olimpia, 30 di aprile 1977. Y ahora la noticia del día. Piden justicia. Son un grupo de madres que luchan por recuperar a sus hijos. Solas, sin ningún tipo de apoyo oficial, se reunieron para exigir al presidente de facto Jorge Rafael Videla que se les informe acerca del paradero de sus hijos desaparecidos. Il 1977, tanti avvenimenti chiaramente in quell'anno, in parte l'abbiamo già ricordati, ma mi piace partire in questa seconda parte di Olimpia nel rivivere quell'anno, l'anno dei tre campioni, come recita il titolo del libro che ho tra le mani, il libro edito da Ultrasport e realizzato da Ivan Sica, Alessandro Mastroluca e Francesco Gallo, che dedicano questo volume alle storie che in quell'anno si intrecciano di Diego Armando Maradona, Johan Cruyff e Pelé. Ebbene, il 1977 è anche l'anno in cui iniziano a scendere quotidianamente nella Plaza de Mayo di Buenos Aires le Madri Coraggio, le madri che chiedono conto alla dittatura argentina dei loro figli e delle loro figlie desaparecide nei luoghi delle torture. Ecco, ripartirei da qui, da questo momento, da questa fotografia così drammatica, perché Ivan Sica, il Maradona che comincia a sbocciare calcisticamente, lo fa in quell'Argentina, ecco, in qualche modo c'è una percezione, qual è il contesto in cui Dieguito comincia a diventare Diego? Eh sì, un anno prima, nel 76, c'è stata l'infame trasmissione Argentina-Polonia, no? per calmare le acque, per distrarre la popolazione, il giorno del golpe, il nuovo, diciamo, la giunta militare manda in onda la partita e come dire, l'intera nazione si ferma e non sta a guardare quello che sta succedendo fuori dalla loro finestra di casa, per strada, mentre i militari stanno prendendo il potere. Maradona chiaramente in quegli anni non sa praticamente nulla di politica, però a un certo punto, contro, se non sbaglio, l'Huracán, adesso non ricordo bene, contro l'Huracán segna un bellissimo gol, e segna un bellissimo gol tirando alla sinistra di un grande calciatore che si chiama Jorge Carrascosa, che è il terzino sinistro titolare della nazionale, e però a pochissimi mesi da un mondiale che deve essere il suo mondiale, cioè il mondiale in cui per la prima volta un argentino può alzare la Coppa del Mondo, lui si ritira dal calcio e tutto viene cancellato. Non si capisce perché Carrascosa, a pochi mesi dal suo possibile trionfo, dal suo possibile diventare un'icona nazionale per sempre, decide di abbandonare il calcio. Lo dirà soltanto molti mesi, molti anni dopo, dicendo che l'aveva fatto appunto per una questione politica. Quindi non gli stava assolutamente bene la giunta dei militari a capo del governo argentino, e l'unico modo che aveva per poter, lui dirà, mettere un granello di sabbia nella testa delle persone che per anni si sono poi chiesti: ma perché lo ha fatto Carrascosa? Ecco, mentre nei primi anni chiaramente a quella domanda ti davi una risposta semplice, era stanco, non era più in grado, si faceva superare dagli atleti più giovani, poi piano piano, dice lui in un'intervista, quel granello nella mente delle persone inizia a diventare una domanda sempre più grande e iniziano a pensare: ma vuoi vedere che lo ha fatto perché non era d'accordo con chi governava in quel momento? Quindi insieme a Maradona nel libro è giusto, e infatti l'ho fatto, ho raccontato anche questa piccola grande storia di il gran capitan Carrascosa. Scrupolo questo rispetto al regime militare, Alessandro Mastroluca, che Pelé avrà solamente nella parte epigonale, no, del regime dei generali brasiliani. In realtà il Pelé che racconti nel 1977 guarda ancora alla parte più vanamente, vanagloriosamente, se mi è concesso, splendente del suo Brasile, di cui è l'idolo, ma si tiene ben distante da questioni politiche troppo pelose, eh? Assolutamente sì, anche se vive in una New York in cui invece la paura c'è, non ai livelli del miedo che c'è a Buenos Aires delle Falcon Nere senza targa, però in quell'anno a New York agisce il figlio di Sam, una serial killer particolarmente pericolosa, una New York con le strade buie che vivrà due giorni di blackout a luglio, una New York povera, insicura, con tanta disoccupazione e tanta insoddisfazione, che sta perdendo l'anima romantica. I Cosmos invece rappresentano ancora l'ultimo baluardo di quest'anima romantica, che si traduce anche in quell'anno nell'apertura dello Studio 54, che è il locale più glamour di tutti, il simbolo forse è la festa dei 30 anni della moglie di Mick Jagger, che porta il cavallo bianco sulla pista da ballo. I primi ospiti dello Studio 54 sono due persone di cui avremmo sentito parlare molto negli anni a venire, si chiamano Donald e Ivana Trump. Ah, beh, insomma, mi pare averli già sentiti e credo che li rivedremo anche di frequente nei prossimi mesi e chissà nei prossimi anni, urne permettendo. Ma senti, quindi Pelé, diciamo, passa da un carnevale a qualcosa che forse è ancora meglio, o comunque, diciamo, il carnevale di Rio rimane imparagonabile. Rimane imparagonabile, però effettivamente anche quando i Cosmos vanno in trasferta, soprattutto in quell'ultimo anno, quando tutti sanno che è il suo ultimo anno, le trasferte dei Cosmos sono un circo, anche perché dietro i Cosmos c'è la Warner, E vuol dire avere dietro gli attori un codazzo di star di Hollywood costantemente allo stadio, che entrano anche nello spogliatoio della squadra. I calciatori sono stupiti, si raccontano anche gli incontri appunto con Mick Jagger, con Robert Redford, si stupiscono perché loro vorrebbero andare dagli attori e parlare dei loro film, gli attori vogliono parlare soltanto di calcio. Beh sì, insomma, alla fine Pelé ha sdoganato anche il soccer, che poi vivrà un rapido tramonto e adesso vive invece un periodo magari meno glorioso ma decisamente più stabile. Al volo ti chiedo, ma mi è incuriosito, questi dissapori e dissidi con Chinaglia, insomma, carattere fumantino, Long John, con Pelé come se la cavò? Non benissimo, diciamo, perché entrambi erano abbastanza egocentrici e se metti due egocentrici a confronto le cose non vanno sempre in maniera particolarmente positiva. In campo hanno litigato anche più volte perché uno voleva che l'altro gli passasse la palla e l'altro non era esattamente d'accordo. Il momento culminante è quando Pelé non passa un pallone a Chinaglia e Chinaglia spogliatoio gli fa: quando Chinaglia ti dice di passare la palla, tu passa la palla a Chinaglia che sa che può segnare. Pelé è quasi in lacrime e i Cosmos sono basiti, non si sarebbero mai aspettati di poter vedere una scena di quel tipo. Beh, Francesco Gallo, a proposito di ego, però direi che pure Johan Cruyff non scherzava, insomma, ci sarebbe stato bene pure lui nei Cosmos, ecco. Probabilmente sì, sarebbe poi invece andato a giocare in America anche lui, a Los Angeles prima e poi a Washington, ma è sicuramente uno dei personaggi più influenti della storia olandese, ma diciamo che questo suo egocentrismo, se così vogliamo chiamarlo, non era ben visto da tutti in Olanda, perché gli olandesi invece hanno questa filosofia della democrazia partecipata, dell'utile che bisogna mettere davanti all'io personale. Tutto questo è riassunto anche nell'aforismo olandese, che dice: quando la scimmia sale più in alto in un albero, gli si vede il sedere. E quindi qualche olandese, diciamo, doc aveva un po' preso di mira Cruyff, soprattutto poi quando c'è stato appunto il passaggio dall'Ajax al Barcellona. Ma a prescindere da questo, credo che anche gli olandesi riconoscano che Cruyff è stato il giocatore più universale, innovatore del calcio contemporaneo, uno dei più importanti di ogni epoca e probabilmente anche il più influente della storia del calcio. Strano però questa sua scelta poi catalana, no? Dove comunque diciamo forse partendo da quel presupposto e da quell'ego, quel Real Madrid che pure l'aveva tentato forse avrebbe più impersonificato uno spirito così portato al comando e alla leadership. Sì, però c'erano diversi fattori che portavano e che hanno appunto poi portato Cruyff a Barcellona anziché a Madrid. Innanzitutto perché a Barcellona allenava Rinus Michels, che era stato il suo allenatore all'Ajax, dando poi avvio a quello che è stato il calcio totale, alla grande Ajax, ma poi anche al grande Barcellona, che finalmente dopo un decennio è riuscita ad interrompere le infinite vittorie in campionato del Real Madrid. Poi a Barcellona lo voleva tantissimo il presidente Costa, che già da 3 anni lo aveva richiesto, e poi giocava anche Rex Sach, che andava spesso con Cruyff a fare le vacanze estive. Quindi diciamo che questi tre elementi, ovviamente Michels è il più importante, hanno poi spostato Cruyff verso Barcellona anziché verso Madrid. Eh sì, questione di cuore, perché questi grandissimi campioni, poi è incredibile a pensarlo, ma poi scelgono spesso con il cuore, no? La nostalgia riporterà poi Pelé al Brasile, in Brasile, il cuore porterà poi Diego Armando Maradona, dopo varie peregrinazioni, a Napoli a costruire il suo mito e la sua leggenda. Il cuore farà di Johan Cruyff uno dei simboli prima del calcio mondiale e poi anche delle rivendicazioni catalane e soprattutto del Barcellona. Trovate tutto, ma molto di più, molti altri aneddoti gustosi in 1977, l'anno dei tre campioni, edito da Ultrasport, e io ringrazio gli autori di questo libro per averci regalato questa piccola gemma, questo piccolo punto d'incontro, questa Stonehenge cronologica in cui queste tre grandi parabole si sono mescolate in quest'anno incredibile, sorprendente e per tanti aspetti quasi magico. Grazie a Ivan Sica, Francesco Gallo e Alessandro Mastroluca per essere stati oggi ospiti di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te Dario, alla prossima. Grazie a tutti, un saluto. Grazie mille a tutti. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.